M2O. Ah, ripeti, mi sono dimenticato tutto? Su M2O io ce sto e non ce sto. Ma quando la piscio. Ma cosa? Fate ben fisto. Questa qui. Ok? Sì, sì. Ok. Ok, ok. Capito. Oh,

Meteo. Affacciatevi alle finestre e appoggiatevi al davanzale. Domenica 16 aprile c'è un balletto pasquale. Certo. Con Provenzano ed Agostino non ti fai male. Rimini. Come si chiama il gallo? Discoteca Altro Mondo. Balletto pasquale. Non ti fai male. Di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico. Raga, non giochiamo. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Lì dietro un vetro guardi fuori, le luci anch'io dei marciapiedi, la gente si è risolta nella sera. Tua amaratezza media, sogni medi, che sbatte gli occhi da cammino, e non sarà sognata neanche spera. Un cespuglio di spini, tuo fratello che pensa sulle unghie delle dita, affitonato con un'aria da bollito. Tuo padre mani da operaio a vita, che ride gli si spacca il viso, pallidito di TV. Tu fretta di vivere qualcosa, ogni cosa è già un ricordo liso, e adesso la pubblicità. Preciso. Sento la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accendo la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Accendo la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accendo la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. I can feel in my heart that you need me tonight. You'll be only the one, you are my baby. I can feel in my heart that you need me tonight. You'll be only the one, you are my baby. Questa canzone, questa canzone, questa. The only one. Artista. Noise of love. Hai capito? I feel alone.

montagne, né il cielo, neanche il mare, quant'altro puoi guardare? Ciò che guardo è una cosa indefinita, sto guardando il miracolo della vita, sto guardando il miracolo della vita. Aprile, balletto pasquale. Con Provenzano ed Agostino non ti fai male. Rimini, discoteca Altro Mondo. 16 aprile, discoteca Altro Mondo. Affacciatevi alle finestre e appoggiatevi al davanzale. Domenica 16 aprile c'è un balletto pasquale. Con Provenzano ed Agostino non ti fai male. Discoteca Altro Mondo. Non è mica un bicchierino. È Provenzano ed Agostino. Balletto pasquale nel senso che è di Pasqua. Raga, senti questa, oh, Gigi Slow, lento, violento, meno. Eh? Hai capito? È lento, violento e meno. Eh? Lento, violento, meno. Eh? È serio, serio, mica stiamo scherzando. E che moglie a me? Sì, sì. Dai, dai. Angel. Gigi D'Agostino.

in the best by far. M2O. Dai un po'. Già bello è sempre lento violento man. We'll be right back. la scorda mai, Pigia, pigia. Pigia, pigia. Stai a pigia? Allora pigia, pigia. Vai. Aprile 2006, ore 15, Gigi D'Agostino alla discoteca Nord-Est, via Pomaroli 8, località Caldogno, provincia di Vicenza. Ci porta lontano. Lontano. Ogni giorno ci gira intorno. Ci gira intorno. Questo è il cammino. Questo è un buongiorno. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il disco anziano di oggi è. sta puntata, non mi faccio sta cantata. C'è già sotto il mio tassista, sono Gigi il folclorista. Non ti devi la testa, sto cammino resta qua. Ma se vuoi che io ritorni, tu sei bravo tutti i giorni. Ogni giorno io t'aspetto, sono Gigi, l'ho già detto. Mo la sigla ma sfumare, perché devo respirare.